Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Priscilla. Ben ritrovate e ben ritrovate con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, e ben ritrovati con questo giugno che è assolutamente mese di libri e di consigli di lettura. Vi stiamo dando una serie di suggerimenti che vi possono aiutare nell'orientarvi in tante possibili letture per l'estate, sempre a tematica storica. La puntata di oggi non vuole essere soltanto una lista di libri ad argomento storico, vuole anche essere l'occasione per andare ad ispezionare uno dei generi fra i più diffusi quando si parla di storia in libreria, la biografia per l'appunto. Terreno spesso poco battuto dagli storici e dalle storiche accademiche, ma che invece sembra essere fra uno dei generi di maggior successo all'interno del grande pubblico. Non per nulla, la preparazione di questa puntata ci ha richiesto un bel lavoro di selezione fra tanti testi, anche di ottima qualità. La nostra difficoltà di scelta testimonia la vivacità di un genere che molto spesso, anche chi vi parla, sia chiaro, ha tenuto un po' in disparte, come un genere che non fosse troppo in grado di raccontare la storia con la S maiuscola, diciamo, la storia fatta di dati, di comprensione di fenomeni storici anche di una certa portata, siano cronologici. Ovvio, pensiamo alla storia, alla grande stagione della storia sociale, alla grande stagione della storia economica, di cui spesso anche vi abbiamo parlato da questi microfoni. Però c'è un dato di fatto: nel grande pubblico la biografia funziona. Ce l'aveva già detto anche la nostra Elisa Pievani da Bergamo, quando abbiamo parlato della mostra che stava allestendo sull'anniversario delle leggi razziali. Fra il pubblico e fra i ragazzi che frequentavano i laboratori allestiti dall'Istituto di Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea di Bergamo, la parte che aveva maggior successo era quella delle storie di vita. Esperienza poi questa che ho avuto modo di provare anche stando dietro la cattedra a scuola. Parlando di storia, come parlando di letteratura, quello che colpisce i ragazzi è soprattutto la storia di vita. L'idea che qualcuno possa aver vissuto realmente quel tipo di trasformazione storica, quel tipo di passaggio storico. Perché questo? Boh, bella domanda. Probabilmente perché lo rende qualcosa di più afferrabile, di cui si può misurare concretamente il peso, che porta a misurare concretamente il peso di una trasformazione, per l'appunto. Però l'esperienza pratica forse non bastava a noi di Van Loon, che in fondo dobbiamo confessarlo, per quanto possiamo buttarci un po' sul pop, siamo anche appassionati a quella vecchia storia accademica di cui vi parlavamo. Per cui, per parlare di biografia, avevamo bisogno di un punto d'appoggio, avevamo bisogno di qualcuno che confermasse queste nostre teorie. Per cui siamo andati a ripescare un libro del 2012, un libro molto bellino, che si intitola La piccola X, dalla biografia alla storia, di Sabina Loriga, una storica brasiliana che insegna all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, non ci riesco mai a dirlo bene. Comunque, quindi, un'autrice che dava certificazione di storicità, diciamo. E cosa dice Sabina Loriga nell'introduzione di questo piccolo libretto? Allora, ve lo leggo io. Dice: negli ultimi 200 anni i nostri libri di storia si sono riempiti di racconti senza soggetto. Parlano di potenze, nazioni, popoli, alleanze, gruppi di interessi, ma solo, molto raramente, di esseri umani. Come ha intuito uno scrittore particolarmente attento al passato, Hans Magnus Enzensberger, per chi non è ignorante come Priscilla, ricordiamo che è stato l'autore della breve Estate dell'Anarchia, un libro bellissimo che suggeriamo a tutti. Grazie. Come dice lui, la lingua della storia ha cominciato a nascondere gli individui dietro categorie impersonali. Sono d'accordo con lui, in realtà. Questo è un punto di vista molto, cioè, direttamente afferrabile. Dall'alto dei cieli ringrazia Hans Magnus Enzensberger. La storia viene esibita senza soggetto, le persone di cui essa è la storia compaiono solo come figure accessorie, come sfondo scenico, come massa oscura nel fondo del quadro. I disoccupati, si dice, gli imprenditori, persino i cosiddetti makers of history, appaiono privi di vita. La sorte degli altri, quelli del cui destino non si fa parola, si vendica della loro sorte. Essi sono irrigiditi come manichini e somigliano alle figure di legno che nei dipinti di De Chirico prendono il posto degli uomini. Ecco, sì, una bella riflessione, ma che oltre a prendere in prestito uno storico che per l'appunto ricordiamo essere molto, molto importante, Hans Magnus Enzensberger, non pretendiamo che vi ricordiate la sua raccolta di poesie Templus o Templum, adesso faccio fatica a ricordare, però di cui ricordiamo La breve estate dell'anarchia, che è un libro in cui lui racconta l'esperienza soprattutto di Buenaventura Durruti, quindi questa figura molto importante dell'anarchismo iberico all'interno della guerra civile, ci fa capire come molto spesso alcuni passaggi siano fatti di vite di persone reali che hanno attraversato con i loro pensieri, con i loro corpi certi passaggi storici. Ma perché perché questo vuoto di cui lamenta Sabina Loriga e anche l'ottimo Hans Magnus? Per il semplice fatto che a un certo punto nella storiografia, siamo nel passaggio fra 800 e 900, si inizia a mettere da parte il genere biografico, soprattutto per due motivi particolari. Uno, perché si inizia a parlare di storia come scienza sociale, quindi ogni scienza ha bisogno di dati, non di emozioni, tra virgolette. Adesso sto banalizzando, è ovvio, ma allo stesso tempo perché la storiografia basata sulle biografie sapeva molto di morale, aveva un forte portato etico, pensiamo, o di nazionalismo. Infatti era il genere fra i più diffusi nella storia, per l'appunto, che andava di moda nell'Ottocento, nel Risorgimento, con queste storie di vita che erano degli exempla, sostanzialmente delle grandi storie morali che dovevano dare un insegnamento, per cui se ne è persa un po' la strada, lasciando spazio poi quando si ad un lavoro fatto sulle vite delle persone, per l'appunto, che però non puntava a raccontare una storia in particolare, ma a scegliere una categoria che tramite una ricostruzione di un percorso di vita potesse essere giudicata abbastanza rappresentativa, a costituire un campione, anche qui però senza volto. Quindi Fre, allora, contrariamente un po' a queste biografie costruite come campione rappresentativo di un'epoca, quelle che presenteremo da qui in avanti, nel resto della nostra puntata, sono proprio una rassegna di biografie di uscite tra il 2017 e quest'anno e frutto un po' anche di lavoro d'archivio, di scavo d'archivio, oppure anche biografie un po' più romanzate, racconti a fumetti, insomma, però una grande varietà che accompagneremo anche attraverso il contributo di due degli autori di queste biografie. Quindi vedremo in realtà una panoramica di testi molto diversi tra loro e proveremo quindi a mettere in fila delle cose in comune tra loro. Questo per noi non è un esercizio nuovo, ma ci sembrava quindi una maniera migliore per mettere in comune quindi dei percorsi molto diversi a partire da che cos'è la biografia. Esatto, che cos'è la biografia, e in più, come diceva Priscilla, ci sarà un piccolo passaggio di testimone fra una biografia e l'altra, giusto per provarla a mettere in comune. Intanto ci ascoltiamo un pezzo. Il disco che abbiamo scelto per questa settimana è un disco del 2016, è La fine dei vent'anni di Motta, il disco d'esordio di Motta, che ha avuto un notevole successo e che ci è piaciuto perché lui fa un racconto biografico a suo modo, racconta della sua vita, racconta di passaggi, trasformazioni, per cui questo poteva essere, ci sembrava la chiave giusta. Partiamo naturalmente da Mio padre era comunista. Mio padre era un comunista e adesso colleziona cose strane. Dice che le amicizie e la rivolta sono vere solo per chi ha paura e rimane. Mia madre era bellissima, le piace fare grandi passeggiate, dice che un figlio un giorno lo farò. Io l'ascolto sempre. Perché mi piace la sua voce. L'amore per loro è aspettare insieme la fine delle cose. We'll be right back. amici, partiamo nel nostro percorso sulle biografie 2017-2018 con il ritorno in libreria di Antonio Toni Senta. Lo chiamiamo Toni nell'arco di questa puntata perché è uno storico dell'anarchismo ed è anche un amico di Vallun che abbiamo avuto ospite in trasmissione lo scorso anno. Toni Senta si era già misurato con un lavoro di ricostruzione biografica con il suo bellissimo libro A testa alta, dedicato al militante anarchico Ugo Fedeli, e si confronta oggi con uno dei grandi personaggi dell'anarchismo italiano e dell'anarchismo italoamericano, a cavallo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che era Luigi Galleani. Luigi Galleani è un personaggio di cui ormai si parla poco perché era molto nello spirito dell'epoca, diciamo, che però ha avuto una sua rilevanza perché era stato, diciamo, il nume tutelare, un sodale, un compagno anche dei più tristemente famosi Sacco e Vanzetti, che spingeva verso un'azione rivoluzionaria dirompente, illegale, fortemente anti-organizzativa. Vi do un'idea del pensiero di Galleani citandovi una sua frase presa dal libro: loro hanno la ricchezza e il lusso, voi la miseria e la vergogna, più vi dissanguano più vi riempono le casseforti. Compagni, ribellatevi, rispondete alla violenza legale del capitale con la violenza umana della rivolta. La biografia di Galleani è affascinante, per quanto poi fosse stata drammatica, costretto all'esilio ovunque fra Italia, esperienze di confino, Egitto, Stati Uniti, di nuovo in Sicilia, la deportazione poi in Italia negli anni 20, quando i rivoluzionari italoamericani vennero spediti vennero deportati effettivamente in Italia in nuove forme di confino, in cui fra l'altro vide la morte anche lo stesso Luigi Galleani. Molto gustoso, ecco, mi permetto di definirlo così, è un contributo che si trova all'interno di questo libro, che è l'introduzione di Sean Sayers, un docente universitario inglese che aveva iniziato una personale ricerca su Luigi Galleani per ragioni familiari. Come mai? Perché Sayers è infatti il nipote del famoso rivoluzionario, essendo il figlio di Mentana Galleani, ultima figlia del rivoluzionario piemontese. Quindi una biografia che ha il sapore dell'evoluzione, ma anche il sapore dell'avventura. E il rigore della storia. E il rigore della storia, naturalmente. Quindi prendiamo il testimone della rivoluzione e passiamo a un altro rivoluzionario, anche questa volta di origine italiana, però ci spostiamo in Sud America. Vi presentiamo infatti il libro di Alfredo Sprovieri, Gioca, il Che dimenticato, che è la vera storia del ribelle italiano che sfidò il regime dei Gorillas, edito da Mimesis, passato prossimo. Il libro di Sprovieri racconta la vicenda di Libero Giancarlo Castiglia, un lavoratore calabrese che è emigrato in Brasile, decide di combattere contro il regime militare anziché rientrare in Italia come avrebbe potuto fare. Il comandante Gioca, che per anni mise nella foresta amazzonica sotto scacco l'esercito, finì poi per sparire con tutti i suoi uomini in un enorme rastrellamento che si protrasse tra il 1973 e il 1974. Sentiamo però la presentazione dell'autore Alfredo Sprovieri, che ci ha raccontato del suo libro e della sua scelta di lavorare sulla biografia di Libero Giancarlo Castiglia. Allora, la storia che racconto nel mio libro è quella di Libero Giancarlo Castiglia, che era un giovane italiano che viveva in Calabria e si trasferisce insieme ai genitori, in particolare alla madre e a due fratelli, in Brasile per ricongiungersi col padre che era andato a cercare lavoro, come succedeva in quelle decadi a tantissimi italiani che andavano in Sud America. Insomma, crescono in Brasile, dopo nel 64 succede che c'è il colpo di Stato, lui era un giovane operaio metalmeccanico che collaborava con un giornale di ispirazione marxista e si dà alla macchia fino a diventare il capo della resistenza in Brasile, il Che della guerriglia brasiliana. Quindi diventa il comandante Gioca e combatte insieme ad altri 69 in tre operazioni militari che impiegano 12.000 soldati. In soli 69 riescono a resistere quasi fino alla fine, perché poi vengono trucidati, prima torturati, trucidati, poi vengono fatti sparire i corpi. Il mio, che è un libro d'inchiesta, racconta cosa è successo a questi ragazzi, questa storia che voleva essere segreta, e soprattutto che fine hanno fatto i corpi e perché ancora questi corpi non sono stati restituiti ai familiari. Io ho pensato che fosse importante raccontare una storia di vita perché faccio il giornalista e mi sono arrivate 3 righe di agenzia sul ritrovamento di questo corpo e questo ragazzo, e ho capito che dietro a quelle 3 righe probabilmente c'era una storia. Ho trovato una storia enorme, una storia segreta, che è la storia di, che è una storia anche universale, se vuoi, perché è una vicenda che, come scrive Goffredo Fofi nella prefazione del mio libro, dimostra che al nostro pavido presente, che quando le cose le vogliamo cambiare siamo disposti a dare tutto perché se cambino, quelle cose sono già cambiate. Altro passaggio fra biografie, ci manteniamo sulla strada dell'America Latina per andare verso un racconto a fumetti. Il libro è Violeta, Corazon Maldito, scritto da Virginia Tonfoni e illustrato da Alessio Spataro ed edito da Bao Publishing. Gli autori sono 2 figure piuttosto note del panorama del fumetto italiano. Virginia Tonfoni è un articolista di Alias Il Manifesto, in cui si occupa prevalentemente di fumetto. Siamo andati qualche volta a spizzicare fra i suoi articoli per le nostre puntate. Mentre Alessio Spataro è un disegnatore piuttosto navigato dell'underground italiano, che aveva illustrato nel 2009 un bellissimo libro dedicato a Federico Aldovrandi, La zona del silenzio, edito da Minimum Fax. E il libro Violeta, Corazon Maldito è un bel libro. Si parte da un bianco e nero che però viene vivificato da una bella bicromia in un arancione molto vivo, molto sudamericano, che ci accompagna nella storia della musicista Violetta e anima, riempie queste figure, animandole veramente, pur trovandosi sulla bidimensionalità, diciamo. L'andamento del libro è quello di una biografia classica, suddivisa, che viene però suddivisa in capitoli intitolati ad un sostantivo, diciamo, della vita della cantante, e ogni capitolo si chiude con un estratto di una canzone legata proprio al passaggio di vita affrontato. Il personaggio che emerge di Violeta Parra è un personaggio molto ingombrante, fra virgolette, anche piuttosto volitivo, che insegue un sogno di indipendenza e di successo per tutta la vita, anche a costo di un sacrificio personale enorme. Uno dei capitoli che vi suggeriamo di leggere con attenzione è quello dedicato alla morte di una delle figlie, un passaggio molto toccante che viene reso molto bene con queste 3 belle tavole con vignette suddivise verticalmente, mute, che raccontano di questo passaggio. Diciamo comunque, a chiusura di questo discorso, che l'andamento cronologico, cioè quindi l'andamento lineare del racconto biografico, non priva di efficacia anche la resa su tavola del ritmo e della musica. Sempre parlando di musica, naturalmente, adesso ci ascoltiamo un pezzo, stiamo ascoltando sempre Motta e ci ascoltiamo Abbiamo vinto un'altra guerra. Abbiamo perso. torniamo comunque in tema di musica, riattraversiamo le Americhe, torniamo in Nord America, negli Stati Uniti, e andiamo incontro a uno di quei personaggi tutto tondo che ogni tanto troviamo, no, nel panorama culturale. Parliamo in questo senso di Jill Scott Heron, che è poeta, performer, scrittore, musicista afroamericano di Chicago ed è uno dei pionieri della spoken word e quindi del rap. Scott Heron, il cui profilo musicale e culturale maturato nell'America dopo il Vietnam, ha inciso profondamente nella successiva cultura rap e hip hop ed è stato anche un uomo dalla vita difficile e drammatica, passata tra solitudine, marginalità, carcere, alcolismo e droghe, soprattutto nella parte finale della sua vita. Ne parla Antonio Tony Face Baciocchi, che abbiamo ammirato anche come batterista della band Camposaldo della cultura underground italiana, che sono i Not Moving, nel libro Jill Scott Heron, il Bob Dylan nero, edito da Volo Libero. Baciocchi aveva già lavorato sulla biografia del musicista e sul, oltre che musicista, performer afroamericano, pubblicando nel 2012, sempre per Volo Libero, il libro di Scott Heron, The Bluesologist, storia e discografia del padre del rap, che sicuramente il mio compare Frey avrà letto. Una piccola guida tascabile di introduzione a questo sfaccettato personaggio. Anche qui abbiamo sentito la voce dell'autore, che bello, ascoltiamolo, che abbiamo incontrato dopo la sua presentazione qua a Bologna. Allora, qui si parla di Gil Scott Heron, che è un poeta, musicista, attivista, intrattenitore afroamericano che ha vissuto dall'attività artistica dagli inizi degli anni 70 fino a quando purtroppo è scomparso nel 2011, e c'è tantissimo da raccontare, soprattutto perché al di là dell'aspetto meramente artistico, Gil Scott Heron ha avuto una vita che è veramente molto facile definire romanzesca, perché ha vissuto tantissimi momenti della storia americana e che lui ha documentato attraverso la sua musica e attraverso i suoi testi, e soprattutto ha vissuto appunto una vita particolarissima. Basti pensare che il padre era un calciatore che è andato a giocare americano, che è andato a giocare poi nel Celtic di Glasgow, è stato allevato da una nonna attivista per i diritti neri nell'America razzista degli anni 50 e 60. Insomma, è una cosa molto interessante da raccontare e spero da leggere. Beh, innanzitutto c'è il discorso che è un personaggio ancora molto sconosciuto in Italia e in ogni caso su cui c'è sempre stato poco materiale su cui ricercare, per cui è stato un impegno molto approfondito, necessariamente approfondito, perché molte notizie le ho dovuto scovare proprio con molto tempo e con molta ricerca. Mi ha dato la possibilità di affrontare comunque una serie di tematiche, in particolare quella dei diritti dei neri, che sono state gestite da Gil Scott Heron in modo abbastanza anomalo, perché lui non è stato sì un personaggio che ovviamente si batteva per i diritti dei neri, ma lo faceva anche in contrasto con la stessa comunità nera. Era un personaggio fuori dagli schemi, che di conseguenza ha vissuto in modo particolarissimo e originalissimo anche una lotta, insomma, per i diritti dei neri, appunto negli anni 60, anni 70, e l'ha fatto in maniera personalissima, per cui è interessante anche proprio questo aspetto del personaggio. Bene, dopo aver ascoltato le parole di Antonio Baciocchi, che ci ha presentato il suo libro dedicato a Jill Scott Heron, prendiamo il testimone della scrittura come maniera per raccontare il cambiamento, per raccontare le trasformazioni del Novecento, riattraversiamo l'Atlantico e arriviamo in Italia. E passiamo a una scrittrice che non ha bisogno di presentazioni, che è Natalia Ginzburg, l'autrice di Lessico Familiare, che viene raccontata in un bellissimo libro uscito quest'anno, candidato al premio Strega, che è La Corsara, ritratto di Natalia Ginzburg di Sandra Pretignani, edito da Neri Puzza. È proprio curioso chiudere la nostra rassegna di libri biografici proprio con questa autrice, che ha costruito la sua stessa produzione letteraria proprio raccontando la sua stessa vita. Scusate le tante ripetizioni, ma mi sembra è un passaggio molto particolare. Se pensiamo al più celebre romanzo di Natalia Ginzburg, che è Lessico Familiare, troviamo parti della sua vita. Naturalmente non c'è solo quello, perché è per l'appunto un romanzo, però quel libro ci ha permesso di entrare in contatto con dei giganti della cultura e della politica italiana, con Cesare Pavese, Giulio Einaudi, Vittorio Foa e naturalmente Leone Ginzburg, primo marito di Natalia per l'appunto. Sandra Pettignani prende questi elementi e ricostruisce su quello la biografia della scrittrice, la Petrignani recupera parti del racconto, oltre naturalmente a delle interviste, incontri che ha avuto con delle persone che l'hanno conosciuta e i suoi stessi ricordi, perché l'aveva conosciuta in giovane età, ma soprattutto fa questo bellissimo lavoro di prendere parti del romanzo, parti di racconti di Natalia Ginzburg e riprovarle a ricollocare in quella che poteva essere stata la sua maniera di interpretare quel momento, quella maniera di vivere quel momento. In questo senso, una delle parti di questo libro che vi consigliamo calorosamente è la parte dedicata al matrimonio con Leone Ginzburg, all'esperienza condivisa dai due del confino e successivamente alla parte della morte di Ginzburg per mano al seguito delle percosse dei fascisti. Insomma, è una parte che è veramente mozzafiato, in cui vengono combinate tanti racconti di Natalia Ginzburg, in cui possiamo intravedere il ritratto di Leone con la ricostruzione che ne fa la Petrignani. Un libro bellissimo che ci racconta la figura di questa scrittrice partendo dal ritratto che tutti riconosciamo, ovvero sia quello di una scrittrice, ben definita, che nel corso del libro vediamo emergere lentamente in tutti i vari passaggi della sua vita. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey e Priscilla, ciao! Ciao!